Sono al programma a cura di Lorenzo Chiera e con noi oggi il tecnico Alberto Chierici e oggi abbiamo un ospite che ci terrà compagnia per tutta la settimana. E qui con noi Emanuele Pappalardo. Buongiorno Emanuele. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Dunque Emanuele è da poco tornato dalla Cina e ha realizzato per Rai 3 un servizio dedicato alla musica cinese contemporanea. Sì, direi che prima di incominciare a parlare di questo tema forse possiamo farci introdurre al tema da un'intervista che ho fatto a Shanghai con un compositore. Ascoltiamo. La cultura cinese ha una lunga storia e noi cinesi siamo sempre stati in grado di confrontarci con le culture con le quali siamo venuti a contatto nel corso dei secoli. Come esempio possiamo prendere il periodo in cui la Mongolia invase la Cina. La cultura mongola non ha sopraffatto quella cinese, al contrario, è stata proprio la cultura cinese a inglobare, ad assimilare quella mongola. Ancora un altro esempio. In Cina vi sono molti strumenti musicali tradizionali, tra i più noti come l'arhu, il violino cinese a due corde, e la pipa, il nostro liuto, che fanno parte del nostro patrimonio nazionale. Eppure questi strumenti, per quanto antichi, provengono da altre culture. Noi li abbiamo modificati e adattati alle nostre esigenze musicali. Sì, i cinesi sono sempre stati in grado di confrontarsi con le culture straniere e da questo confronto la nostra cultura ne è sempre uscita arricchita. Anche per ciò che riguarda il presente, posso dire di non scorgere alcun pericolo, in quanto mi sembra che il momento attuale sia caratterizzato da una superficiale imitazione di modelli stranieri. Quando in una fase più avanzata si arriverà ad un reale confronto, i cinesi sapranno mettere in opera quei processi di metabolizzazione che li hanno contraddistinti nei secoli. Vede, noi cinesi abbiamo un grande stomaco che funziona molto bene. Su Yaner è un compositore di 72 anni, vive a Shanghai ed insegna composizione nel conservatorio della sua città. Le frasi che abbiamo ascoltato erano tratte da una lunga intervista che ho avuto di recente a Shanghai con il compositore. Questa intervista e tutti i materiali che ascolteremo in questi incontri radiofonici sono stati da me raccolti sia a Pechino che a Shanghai tra lo scorso dicembre e gennaio, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'Istituto di Cultura Italiano a Pechino e all'Ambasciata Italiana. Zhu Yaner, dicevo appunto, è sentito come un punto di riferimento musicale, ma soprattutto etico, morale, una statura morale a tutti i musicisti cinesi, in particolar modo dai compositori appartenenti alla generazione dei 30-40 anni, cioè da quei compositori che hanno vissuto in pieno il momento di trapasso dal vecchio al nuovo, un periodo che iniziò alla morte di Mao nel 1976 e che prosegue a tutt'oggi. Un periodo che ha visto battute di arresto dovute alle reazioni verso le proteste studentesche che culminarono poi nei tragici noti fatti di Tiananmen del 1989. Zhu Yaner, con la sua metafora del grande stomaco cinese, pone l'accento su uno dei problemi fondamentali dell'attuale momento della vita culturale cinese, cioè sul come sarà possibile, in fondo, mangiare avendo anche il tempo e la chimica per digerire i risultati altrui. Zhu Yaner si dimostra molto saggio nel saper leggere la propria storia, ma oggi i tempi di invasione, perché di una vera e propria invasione da parte occidentale si tratta, anche se la violenza è tutta culturale, questi tempi, dicevo, oggi sono molto rapidi e la Cina avrà il tempo di assimilare, di metabolizzare tutto ciò che l'Occidente le passa, oppure non rischia piuttosto, per rimanere nella metafora di Zhu Yaner, non rischia piuttosto di fare una violenta indigestione. Il problema del rapporto con l'Occidente e soprattutto del come sarà possibile mantenere e incrementare uno stile nazionale preservare le proprie radici culturali senza cedere troppo nei confronti dell'Occidente, questo tema, dicevo, è fortemente sentito oggi in Cina, in tutti i settori della vita sociale, politica, artistica. Ma in questi incontri radiofonici ci occuperemo soprattutto di come questa problematica viene sentita nel settore musicale e delle risposte che i vari compositori cinesi contemporanei cercano di dare attraverso le loro opere. Ma iniziamo subito con un breve ascolto tratto da uno dei lavori teatrali di maggior successo negli anni 60-70, gli anni appunto della rivoluzione culturale, tanto per intenderci, e che ancora oggi gode di una grande popolarità, tanto da essere stato recentemente ristampato in CD. Si tratta del Distaccamento Rosso Femminile, la cui musica fu scritta da Dumi Singh, un compositore oggi 66enne, che ritroveremo presto anche con la sua attuale produzione musicale. Ma ascoltiamo. Ecco, dopo questo ascolto forse sarà spuntata anche qualche lacrima nostalgica sul volto di quanti hanno avuto un'assidua frequentazione cinese, ma ricordi a parte, in questo breve esempio è evidente come vi sia una commistione di tradizione cinese, diciamo così, e musica occidentale. Questo rapporto è però vissuto, a mio avviso, in modo decisamente superficiale, sono due mondi che in fondo non si integrano affatto. Ma questa musica riflette anche il clima politico di quegli anni, una musica dichiaratamente di propaganda, prodotta in un periodo in cui era la moglie di Mao, Yan Qing, a essere responsabile della politica culturale cinese. Un periodo decisamente segnato dai dettami di Mao, pronunciati nel celebre discorso di Yan del lontano 1942. In quel discorso Mao incitava gli intellettuali a spogliarsi dei loro abiti borghesi e a recarsi dai contadini nelle campagne per studiare i veri valori della tradizione. Nei 10 anni di rivoluzione culturale la musica occidentale era fortemente criticata e proibita. Tuttavia la tecnica occidentale, la tonalità e l'uso degli strumenti occidentali non furono per nulla proibiti, tutt'altro. Sembrerebbe un paradosso, ma questo è avvenuto perché nell'ottica culturale del regime la musica cinese, con le sue staticità, i suoi strumenti tradizionali, ecco, non erano sentiti dal regime come veicoli sufficientemente adatti a infondere un ardore rivoluzionario nelle masse. Ecco quindi che bisognava valorizzare la musica tradizionale per poi adattarla agli scopi della propaganda, come dire, pompandola, ecco, per così dire, rendendola più eroica, più direttamente comunicativa mediante gli strumenti e le tecniche compositive occidentali. Ma ascoltiamo ancora un altro frammento, sempre da Il Distaccamento Rosso Femminile, su musica di Dumi Singh. Thank you. metà degli anni 60, questo lavoro di Du Mixing veniva appunto composto nel 66. Ora, è abbastanza evidente, mi sembra, questo ascolto, come vi sia una superficiale, come dire, un modo abbastanza superficiale di far convivere questi due mondi, quello occidentale e quello cinese. Uno dei motivi per cui la musica occidentale, o meglio la tecnica occidentale nel periodo della rivoluzione culturale non fu in realtà ripudiata, pur vigendo appunto, come dicevo poc'anzi, una fortissima idiosincrasia dettata dal furore ideologico di quegli anni nei confronti dell'Occidente, uno dei motivi, dicevo, fu che in fondo la musica occidentale aveva messo delle salde radici in Cina fin dagli anni 20 e 30 del nostro secolo. E basti pensare che ad esempio il popolare Fran Martino ancora oggi viene ritenuto da molti cinesi come appartenente alla loro tradizione e veniva intonato con Abbasso l'imperialismo. Lo stesso inno cinese è a tutt'oggi una marcetta in sol maggiore. Negli anni 60 e oltre era abbastanza normale svegliarsi con musica ispirata a modelli occidentali e diffusa dalla radio. L'armonia, il ritmo, la melodia occidentali erano ormai veramente penetrati in Cina da più di 30 anni. Per non pensare poi all'opera svolta dalle chiese cristiane che almeno fino al 49 poterono divulgare attraverso i vari riti liturgici anche la fede, oltre che la fede, anche la musica. In città come Shanghai sono ancora visibili commistioni architettoniche molto suggestive, in quanto la città fu sede fino al 49 di concessioni francesi, belga, tedesca, inglese, eccetera. Lo stesso conservatorio di musica di Shanghai sorge in un'area che era una concessione francese. Purtroppo questi originari accostamenti tra architettura cinese e occidentale stanno veramente rapidamente sparendo per lasciare posto a grandi centri commerciali su modello giapponese o americano. E il tutto sta avvenendo con una rapidità tale da veramente da restare sbalorditi. Sia a Pechino che a Shanghai giorno e notte fremono i lavori nei cantieri edili di costruzione. Non è infrequente che da un giorno all'altro si veda sparire un palazzetto o un'area verde. Pechino e Shanghai stanno mutando la fisionomia in un tempo veramente rapidissimo, forse veramente troppo rapido. Persone che hanno visitato queste città 10, 15 anni fa stenterebbero oggi a riconoscere. Ma torniamo alla musica, anche se è evidente come solo apparentemente ce ne siamo allontanati, in quanto questi mutamenti così profondi non possono essere ininfluenti anche in altri settori della geografia culturale di un popolo. Incontriamo nuovamente Du Mixing per ascoltare come compone oggi, a 30 anni dal distaccamento rosso femminile da cui abbiamo tratto quei due brevi ascolti precedenti. Ascoltiamo quindi un breve frammento dall'incipit del suo secondo concerto al pianoforte orchestra del 1992. Thank you. un estratto dal primo movimento del concerto, il secondo concerto del pianoforte e orchestra, un lavoro del 1992 di Du Mixing. Beh, anche qui, pur essendo un lavoro molto recente, direi che l'atteggiamento di accostare due realtà così diverse, quali appunto la musica occidentale, una realtà occidentale, una città orientale, cinese in particolare, in fondo non si è mutato di molto nella sostanza rispetto a quanto avveniva prima delle aperture degli anni Ottanta, anche se in questo lavoro è maggiormente evidente l'influenza degli studi sovietici compiuti dal compositore dal 54 al 58 al Conservatorio di Mosca. Il rapporto tra Cina e Occidente continua anche in questo lavoro ad essere di giustapposizione, a volte di sovrapposizione, senza un reale confronto e una relativa sintesi. È che un lavoro che comunque testimonia una certa tendenza da parte dei compositori più conservatori e accademici. Du Mixing ne è un ottimo rappresentante, attualmente non solo insegnante di composizione al conservatorio, a uno dei due conservatori di Pechino, il Conservatorio Centrale, ma anche direttore esecutivo dell'Associazione dei musicisti cinesi e ricopre altre cariche di rilievo nella politica culturale cinese. Quindi abbiamo incontrato un uomo, come dire, istituzionale, ecco. Bene, incontriamo ora invece la musica di un altro compositore, decisamente meno istituzionalizzato di Du Mixing, Yan Liching. Yan Liching è un compositore 54enne di Shanghai, molto noto in Cina. È stato il primo compositore a recarsi all'estero con una borsa di studio nel 1980 in Germania per studiare, appunto, per aggiornarsi su quanto avveniva nel campo della composizione al di fuori dei confini cinesi. Negli ultimi mesi del 94 è stato pubblicato un CD dalla China Records interamente dedicato ai suoi lavori. Ne ascoltiamo un frammento tratto dalla sua ballata sinfonica per pipa e orchestra. Ricordo che la pipa è il liuto cinese. Il lavoro è del 1987, ascoltiamo quindi Yan Liching. Ecco, era un estratto dalla prima parte della ballata sinfonica con pipa di Yan Liqing, compositore di Shanghai 54enne, compositore molto noto attualmente in Cina. Ecco, anche in questa ballata sinfonica, benché sia molto evidente l'uso dello strumento cinese, non mi sembra proprio si possa ancora parlare di un dialogo tra diversi mondi, appunto tra mondo occidentale, mondo cinese, mondo orientale. C'è più che altro una giusta posizione di due culture. Lo stile di Yan Liqing, come quello di molti compositori cinesi oggi, è tuttavia questo. Yan Liqing va comunque considerato come un vero pioniere nella musica contemporanea cinese. Dicevo che è stato il primo compositore a recarsi all'estero nel 1980, l'impuntatura, portando con sé al suo ritorno, dopo 3 anni di permanenza in Germania, numerose partiture di musica occidentale che in quel periodo costituivano una vera rarità in Cina e sulle quali ha fatto studiare molti dei suoi allievi. Ha scritto una monografia di Messiaen in cinese e sta completando un trattato di strumentazione con esempi tratti dalla musica d'avanguardia occidentale cinese. È stato il fondatore di uno dei primi gruppi di musica contemporanea, insomma una persona attiva e vivace, oltre che essere estremamente aperta e cordiale. Sempre a Shanghai e sempre della stessa generazione di Yan Liqing è In Fuzai. In Fuzai è uno dei più noti compositori di musica da film in Cina, potremmo dire il Morricone cinese per quanto riguarda la notorietà, forse non tanto per la qualità dei suoi lavori. Lavora per l'industria cinematografica di Shanghai, ma scrive anche molta musica sinfonica non destinata alla pellicola. Vale la pena di ascoltare come sente musicalmente anche In Fuzai questo rapporto tra cultura occidentale e cinese. Il lavoro dal quale ascoltiamo un estratto è molto recente, del 1993, si tratta di un concerto per harhu e orchestra occidentale. L'harhu è il violino cinese a 2 corde. In questo caso il rapporto è quanto mai sereno, non esistono contrasti, bensì una serena armonizzazione tonale di melodie pentatoniche, anche se armonizzare una melodia pentatonica di per sé costituisce una forzatura. Il risultato lascio a voi giudicarlo. Ascoltiamo quindi il concerto per harhu e orchestra di In Fuzai, un lavoro del 1993. sulle note del concerto per Hahu, il violino cinese e orchestra di Yin Fu Zhai, un lavoro del 1993. Emanuele Pappalardo vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento anche alle prossime trasmissioni in cui entreremo più nel vivo della produzione contemporanea cinese. Cedo la parola a Andrea Baggiori. Ecco, va bene, no, solamente per ricordare che l'appuntamento è fra un quarto d'ora dopo il GR. A risentirci con Scatola Sonora.